Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo all'inizio di una nuova settimana e come sempre è per me un piacere aprire i momenti di approfondimento insieme all'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, parliamo di una cosa interessante che voi adesso ci racconterete in maniera più adeguata. Parliamo delle donne che sarebbero più attente degli uomini, evidentemente, agli sconti, a ricercare gli sconti anche alla cucina di qualità. Sì, dobbiamo dire che da un'indagine di mercato è emerso proprio, ricordiamo una ricerca di Whispers in questo caso, è emerso come la donna in quest'ultimo periodo è molto più attenta a quello che compra e anche ai soldi che spende, perché se da una parte comunque c'è una ricerca a ritenere nella spesa, dall'altra c'è una ricerca a comprare sempre più cibo di qualità, cibo biologico, cibo a chilometri zero. Ma tra tutto questo quello che emerge è una particolare attenzione al cibo made in Italy. Ecco, si è visto che le donne sono un po' più attente, quindi si fa la spesa più consapevolmente. Diciamo che l'82% delle donne, come detto, predilige il prodotto made in Italy, cosa che invece l'uomo quando fa la spesa è, perdonami, è la definizione più distratto. Sì. E qua abbiamo un dato del 41%, quindi c'è una notevole differenza. C'è da dire che appunto il controllo dell'etichetta e la provenienza dei prodotti che acquistano, le donne hanno dichiarato che nel 75% dei casi, se non verificano questi parametri, normalmente sono restie ad acquistare questi prodotti. Quindi, come detto, una ricerca alla qualità, quindi alla salute e quindi anche a una, posso dire con orgoglio, a una consapevolezza che insomma quello che sono tutti gli sforzi che in quest'anno anche l'Associazione dei Consumatori, anche l'ADICO ha sempre fatto, quella di sensibilizzare le persone anche a controllare un po' l'etichetta, a saperla leggere, verificare la provenienza eccetera, almeno per quanto riguarda la donna questa cosa sembra recepita molto bene. Devo dire che probabilmente l'Eurispes non mi ha chiamato, perché se no sarebbero cambiate un po' le percentuali, perché io sono invece un attento consumatore. Quando acquisto cerco il cibo di qualità, cerco il made in Italy, proprio come farebbe una donna. Però c'è anche da dire un'altra cosa: si è scoperto che le donne sono quelle anche attente a comprare con le promozioni, con gli sconti. Sì, sicuramente la donna cerca molto i prodotti con gli sconti ed è anche più disposta, come ha dichiarato nel 71% dell'indagine, ad abbandonare le abitudini e a cambiare marca. È vero, e questo mi allaccia anche alla tua battuta, che l'uomo, tu ma anch'io, normalmente tendiamo un po' a concentrarci su Made in Italy, però magari veniamo molte volte ingannati dalle marche e non andiamo a verificare quella che invece è la qualità del prodotto, anche proprio se parliamo di Made in Italy, perché poi le marche più note esposte nei banchi cercano anche un pochino di oscurare quello che dovrebbe essere un comportamento corretto. Però è anche da dire che comunque il 54,5% delle donne ha constatato purtroppo una diminuzione del potere d'acquisto, sottolineando anche una crescente difficoltà a coprire le spese, facendo fatica a superare solo con le proprie entrate, e qua abbiamo un dato che è il 74,5%, quindi anche qui donne sempre più autonome, ma donne anche in difficoltà ad arrivare a fine mese, quindi un risparmio che insomma parla sempre anche più di quota rosa rispetto a quello che era una volta una tendenza più prettamente maschile. Esatto, da questa ricerca si è visto che sono sempre più presi d'attenzione gli outlet e i grandi magazzini. Sì, outlet, grandi magazzini. Poi per dare ancora qualche dato, ricordiamo che l'82,7% delle donne ha scelto di acquistare prodotti in sconto, ecco, giusto perché mancava il dato alla domanda di prima. Il 71% delle donne approfitta dei saldi. E poi abbiamo per esempio prodotti a chilometri zero 57,3%, Quindi tutti i numeri che alla fine danno comunque merito a quella che è una, come detto, un nuovo stile, una nuova attenzione su una scelta che, insomma, se da una parte abbiamo detto c'è una ricerca di prodotto di qualità e una difficoltà di risparmio, però fondamentalmente non si rinuncia al cibo di qualità. Bene, quindi una consapevolezza del consumatore, questo dovrebbe far felice anche proprio l'Associazione Difesa Consumatori e te come presidente, vuol dire che c'è sempre più attenzione, più capacità selettiva e quindi forse il tuo lavoro in questo caso viene premiato dalle considerazioni di questa ricerca dell'Eurispes. Sì, siamo molto contenti a leggere questi dati, anche perché vediamo che, insomma, dei passi in avanti sono stati fatti, quindi vuol dire che ormai certi concetti li cominciamo ad acquisire e riteniamo, insomma, che sono concetti importanti che danno merito a tutti e, diciamo, anche tutto un po' anche alla filiera, che quindi vede come il consumatore l'ultimo soggetto, ma quello più importante da dover salvaguardare. Bene, una bella indagine, trovate anche un interessante articolo nel sito associazionedifesaconsumatori.it, eventualmente da leggere se magari vi fosse sfuggito qualche particolare enunciato orora dal nostro presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, che ringrazio e saluto. Grazie a te, Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.